non ce la fa più. Sono riuscito a salvarti un bacio e mi sono detto vai. La tua faccia quando mi ha guardato, come per dire non mi porterai a letto. So che non mi piacerai. Tu prova prima e dopo mi dirai. Non me la dai mai, non me la dai mai, non me la dai mai, non me la dai mai, non me la dai mai.